rischio la mia fine. Questo è quello che faccio, scrivo bombe a mano, faccio esplodere un messaggio. Convinciti, la vita è questione di equilibrio. Non devi voltar pagina, devi cambiare il libro. L'ibrido che non soddisfa, succhio la mia vena artistica. Lascio il mio vangelo ad ogni bar e crisi mistica. La storia è la stessa, quelli che non insistono si fanno dei problemi che poi nemmeno esistono. Se vuoi provare, prova e riuscire alla fine. Ma se rinunci è solo rimpianti da gestire. Sei quello che fai, quindi se non fai un cazzo sai quello che sei, sei quello che fai. Tutto ciò che vuoi al di là della paura. Punta sull'obiettivo anche se sembra dura, anche se sembri pazzo, anche se fa male a volte. Asta nella vita, si è affamato eppure folle. Sfrutta ogni occasione della tua vita, anche se oggi è ferma, impietrita. I sogni sono stelle sempre più luminose, a fare luce in giornate sfortunate. Trova sempre un senso in tutto ciò che fai, sì. E sicuramente vedrai, non te ne pentirai. Seconda stella a destra e via, fino al mattino, afferra il tuo sogno per farlo più vicino. Lacrime sul volto per cicatrici dentro, nella schiera dei falliti io non ci rientro. Preferisco partire sempre da sconfitto, così guardarti in faccia quando ho vinto. Beh, quante volte mi hanno sputato in faccia, ma mi sono rialzato più di quanto ti piaccia. I problemi sono ostacoli per crescere, affrontare e fare le palle, per vivere stili diversi in questo mare di persone. Alla fine libero e godermi ogni occasione. Nei miei testi trovi sempre la motivazione, in questo flow invece la mia convinzione. Ascolta sempre tutto ciò che hai dentro, perché sarà sempre un boomerang di ritorno. Riparti da ogni errore se non l'hai capito, altrimenti ogni tuo obiettivo avrai fallito. Sfrutta ogni occasione della tua vita, anche se oggi è ferma, impietrita. I sogni sono stelle sempre più luminose, a fare luce in giornate sfortunate. Trova sempre un senso in tutto ciò che fai, sì. E sicuramente vedrai, non te ne pentirai. Seconda stella a destra e via, fino al mattino, afferra il tuo sogno per farlo più vicino.